Allora, eccoci qui come sempre con la voce che ormai conoscete, che un po' appunto di casa ci aiuta a leggere quello che sta accadendo in Messico. Allora, lo dico così un po' in maniera generica, ma insomma le ultime notizie, diciamo, che sono uscite anche sui media mainstream, quando quel poco che si parla di Messico, sono chiaramente per l'elezione di questa presidenta, nessuno senza voler levare, insomma, il fatto eclatante che finalmente anche lì una donna arriva alla presidenta. È vero che leggendolo un po' nel contesto geografico, insomma, uscendo dal Messico, parlando un po' del centro e del Sud America, sappiamo quanto poi non sempre i cambi di governo siano effettivamente insomma, dei cambiamenti di rotta rispetto a tutte quelle che sono degli accordi commerciali, piuttosto che le situazioni più o meno, diciamo, legali. Quindi penso al commercio, alle grandi insomma, a quello che può essere il grande mercato internazionale, i grandi imprenditori internazionali, ma anche, ahimè, tutto quello che si muove, e sto parlando dal punto di vista di questi del parasistema, quindi appunto tutto quello che può essere i grandi movimenti di soldi legati al narcotraffico, che ormai sappiamo in Messico è una realtà presente da tanto tempo. In particolare, poi, le notizie che si leggono ultimamente sono quelle del Chiapas, nello specifico, di un grande esodo di persone che fuggono. Addirittura qualche organizzazione di diritti umani la definisce inaspettata, no? Come se già si sapeva che sta cambiando anche lì gli attori, diciamo, di quello che era il conflitto che un po' il Chiapas si porta dietro da sempre. Non si aspettavano comunque un impatto così forte. Sicuramente difficile da leggere, e qui appunto ti chiediamo di aiutarci. Così, innanzitutto un saluto a tutte le compagne e compagni e a tutte le persone che ci ascoltano e un ringraziamento speciale a Radio Onda Rossa, alla tua trasmissione, per darci sempre spazio per poter fare un po' di analisi e cercare di raccontare qualcosa di Messico che sia oltre il folklore le serie dei Narcos di Netflix, per raccontare una realtà molto più complessa e incluso più violenta. Quello che dici, Marta, è esatto. Ok, siamo a ridosso della vittoria in termini elettorali schiacciante di Claudia Sheinbaum, che, come dichiarato, porterà avanti quelli che sono i principi politici della quarta T, ossia della quarta trasformazione, intesa in Messico dalla sinistra, quella sinistra istituzionale e perché no, anche populista, e come un gran cambiamento delle istituzioni verso appunto un Messico del popolo. E ovviamente noi dalla nostra posizione in basso a sinistra, come direbbero gli zapatisti, sempre siamo stati critici nel movimento delle Generación Nacional dell'attuale presidente Andrés Manuel López Obrador e continueremo a essere critici quindi di questa continuità che promette Claudia Sheinbaum nei prossimi 6 anni. E ovviamente ci sono dei dati che bisogna analizzare e accettare per quanto critici, il fatto che la destra nazionalista, la destra turbocapitalista stanno comunque in termini elettorali sono ridotti al lumicino, diciamo, e forti solo negli strati medio-alti, e mentre la classe media, soprattutto urbana, e le classi storiche, come contadini nelle zone rurali, così hanno votato, diciamo, in massa ancora una volta per il progetto di governo. Quando diciamo in massa, dobbiamo comunque considerare che stiamo attorno al 49% tra voti nulli e astenuti, cioè solo il 51% della popolazione ha votato attivamente, e di questo 51% è praticamente quasi un 60% ha confermato, diciamo, la scelta per questo governo. E dobbiamo leggere questa forte adesione, potremmo dire in qualche modo anche popolare, all'attuale governo di centro-sinistra e soprattutto per le politiche di redistribuzione del reddito, potremmo dire, e una serie di programmi assistenzialisti, soprattutto per studenti e pensionati. Ci sono circa 20 milioni di studenti che ricevono una borsa di studio perché è universale e generalizzata, e se non mi sbaglio 14 milioni di pensionati, con una pensione, diciamo, universale, non legata ai contributi lavorativi. E ovviamente questa redistribuzione delle pensioni è un programma totalmente assistenzialista che potremmo anche criticare come fanno certi compagni, soprattutto rispetto ai contadini, che serve per monetarizzare le entrate soprattutto dei settori rurali e quindi inserirli nel mercato, una specie di nuovo piano keynesiano, potremmo dirla, se buttarla là. Però in qualche modo, al di là di questo, noi quella cosa che ci interessa di più è come il governo ha saputo prendere certe ricchezze, risorse pubbliche, e ridistribuirle nella popolazione in una maniera che ha creato un'alta adesione, perché ovviamente il prima e la destra turbo capitalista, come la definiamo, del PAN, prendevano dell'erario pubblico tutto ciò che volevano prendere, e di questo vivevano e facevano man bassa, distribuendo solo fra gli addetti dell'elite, gli addetti del partito, dell'elite, insomma. Quindi è questo grande, sembra poco, però la lettura generale è che è un governo contro la corruzione, adesso i soldi vengono redistribuiti, vedi che adesso si sta meglio, il salario minimo è aumentato quasi del 100%, ovviamente anche l'inflazione, però va bene. Tutto questo è per dare un po' il quadro, scusate, però è un po' per capire pure come ha fatto questo centrosinistra, che francamente è di sinistra ben poco, a parte queste politiche, potremmo dire socialdemocratiche, però in realtà sono le stesse che McNamara diceva dal Pentagono, di dare i soldi ai poveri, sennò questi fanno una rivoluzione. In un posto come il Messico c'ha molto senso questa frase. Esatto, anche quindi, perché tutte queste persone che adesso ricevono la borsa di studio, ricevono la pensione, sono le stesse che hanno riempito le piazze per anni contro il PRI, hanno fatto i planton, hanno fatto i blocchi stradali, hanno fatto la comune di Oaxaca, e insomma, stiamo parlando di una popolazione, o comunque di una cultura popolare effervescente, sempre molto ribelle, e in qualche modo la sinistra al potere è riuscito a contenere questo spirito ribelle per il momento con borse di studio e pensioni. Questa è ovviamente la nostra lettura, ma ci sembrava opportuno per dare il contesto, e questo spiega i 30 milioni di persone che hanno votato a Andrés Manuel López Obrador, e sono gli stessi 31 milioni che hanno votato a Claudia Sheinbaum. Quindi se ci facciamo il caso, sono 20 milioni di studenti, 14 milioni di pensionati che ricevono le borse di studio, quindi eccoli, stanno là più o meno. E ovviamente è molto più complesso che questo, no? Io non sono affatto un analista, meno dei processi elettorali, non è proprio il mio, però sicuramente possiamo dire che ci sono le persone che hanno confermato e hanno votato questa scelta del governo. Evidentemente ha funzionato. Credo che hai reso anche molto bene un po' un clima che poi appunto questo che succede, la sintesi cos'è? Insomma, un conflitto, per quanto metropolitano, comunque viene un po' assopito in questo modo, no? Non so come dire. Mentre intanto poi sappiamo che nel resto del Messico vanno avanti dei progetti che continuano, al di là, come dicevamo, a essere veramente imponenti a livello territoriale in Messico, no? Esattamente, infatti quello che noi diciamo, e la nostra critica sempre in termini economici, è che le scelte macroeconomiche di questi governi di centrosinistra, tanto di Andrés Manuel López Obrador, e la continuità che ha promosso Claudia Sheinbaum, si basa tutta invece sui megaprogetti, sulle grandi opere. E soprattutto parliamo del Tren Maya nella penisola dello Yucatan, che collegherà Cancun al Chiapas a Palenque, facendo un giro rotondo di tutta la penisola dello Yucatan, a pochi passi della raffineria di Dos Bocas, che sta nel Golfo del Messico, che a sua volta sarà collegata invece dal corridor industrial transismico, che è con questi treni ad alta velocità merci, che dovranno sostituire logisticamente il canale di Panama nel punto più stretto del Messico, che è appunto l'istmo di Tehuantepec, e collegheranno così, attraverso una linea ferroviaria e un corridoio industriale già in costruzione, già si sta facendo questa cosa, collegheranno il Golfo del Messico, quindi l'Atlantico, con il Pacifico. E a questo ci aggiungiamo il PIM, che è Plan Integral Morelos, Progetto Integral Morelos, che pure è un sistema, un corridoio di infrastrutture, raffinerie, gassodotti, dighe. Ora, tutto questo, che viene spinto adesso a un gran progetto nazionalista, fra l'altro assegnato nella costruzione agli ingegneri militari e parte degli appalti sono stati dati alla Serena, alla Segreteria di Difesa Nazionale, lasciando intravedere un accordo cupulare che c'è stato fra Andrés Manuel Obrador e le alte sfere militari per permettere appunto a questa sinistra istituzionale di governare, perché senza l'appoggio dei militari sarebbe stato abbastanza difficile. In generale, qualsiasi presidente del Messico arriva al potere deve stringere un accordo con i militari. Esatto. E Calderón, Peña Nieto l'hanno armati fino ai denti e l'hanno messi in una cosiddetta guerra al narco che poi analizzeremo con maggior dettaglio. Quindi li hanno messi proprio in strada, li hanno armati, ha aumentato gli stipendi. E Andrés Manuel López Obrador ha fatto un altro tipo di accordo, ha detto: voi sarete la casta privilegiata, economicamente privilegiata dai megaprogetti, a cambio della stabilità di governo, ovviamente. Stesso accordo fatto appunto, con i grandi industriali del paese, esatto, con i grandi industriali, perché ovviamente stiamo parlando di migliaia di chilometri di ferrovie, treni ad alta velocità, hotel, fabbriche, tutte le maquilas che conoscevamo, che stavano alla frontiera di Tijuana, Ciudad Juárez, queste si sposteranno al sud. Quindi è praticamente spostare la frontiera nord di troppi chilometri, spostarla nel corridoio transismico, diciamo, quindi fra Oaxaca e Chiapas, e ridurla sia in termini di spazio, ma concentrarla come un'area economica speciale, quindi concentrarla economicamente tutto là. Questo che farà? Da un modo attirerà la manodopera del Centro America, quindi tutti i migranti si scontreranno con questo muro, che in parte è un muro di opportunità, tra virgolette, perché là ci sarà il lavoro. Certo, dall'altro di sfruttamento. Sottopagato, esattamente, però ci sarà il lavoro, quindi tu comunque arrivi e ci sarà una quantità di fabbriche e di megaprogetti che succhiano manodopera. Arriva la manodopera migrante, si scontra contro questo muro che sarà super, che è già super militarizzato, già super controllato dalle forze paramilitari e del narco, e quindi questo sarà il vero filtro dei migranti che impossibiliterà loro di arrivare agli Stati Uniti, o comunque renderà molto più difficile e comunque più filtrato l'arrivo dei migranti. Esattamente, è un primo filtro, è un primo grande filtro. Ovviamente stanno facendo un business con un filtro, cioè stanno a creare proprio tutto un sistema economico, ma su un piano logistico che prima si chiamava Plan Puebla Panamá, cioè questo piano che adesso appunto dicevo si spinge come vedi il centro-sinistra sta portando il progresso nel sud del paese, ma in realtà questo piano esisteva ed era proposto dal Banco Interamericano, dal Fondo Monetario Internazionale, nella sua versione americana, diciamo continentale, dall'Ocse, diciamo da una serie di strutture americane ovviamente, cioè da una serie di strutture, sovrastrutture economiche, fondamentalmente definite da Washington, che da anni cercano di creare una serie di infrastrutture, può essere Plan Puebla Panamá, cioè che vada dagli Stati Uniti, dal centro del Messico, sì, lungo la carretera panamericana e arrivi fino, diciamo, al Sud America, all'inizio del continente sudamericano. Quindi è diciamo tutto un asse di infrastrutture logistiche che servono per accelerare il flusso delle merci attraverso Centro America, che è una regione da sempre conflittiva, complicata e via dicendo. Questo programma lo sta portando avanti, questo programma quindi più che neoliberista, cioè un programma di riassestamento logistico del continente, lo sta portando avanti appunto il centro-sinistra, e questo ci preoccupa non solo in termini puramente, che possiamo dire, ideologici, di critica al capitalismo, alle sue strutture, alla necessità di far correre le merci e però allo stesso tempo di frenare i lavoratori, e che comunque ci sembra più che giusto fare una critica radicale, cioè strutturale, a questi mega progetti inutili, a queste grandi opere inutili. Inutili per noi, certo. Cioè ovvio che per il capitale sono utili, ma nello specifico è un po' come succede col TAV, nello specifico ci scontriamo poi nei territori con opere, con grandi opere che devastano il territorio, lo invadono proprio fisicamente, in termini militari, in termini di grandi imprese che arrivano, in termini di lavoratori che vengono da fuori, in termini appunto di distruzione paesaggistica, e anche in termini di mafia, perché poi molti di queste imprese e molti di questi progetti in fondo servono solo per rimettere in circolo i soldi, per fare il lavaggio di tutti i soldi che vengono invece reinvestiti continuamente nel mercato nero, soprattutto nella cocaina, ma anche nella prostituzione, traffico di armi e traffico di migranti. che continuano ad essere, insieme alle rimesse, la principale economia di questo paese. Solo che non dobbiamo, è qua che vogliamo, non dobbiamo slegare, diciamo, il mercato capitalista illegale dal mercato capitalista legale. Esatto. Perché spesso sono gli stessi attori, gli stessi soci. Cioè, può essere che le persone che operano sul territorio sono diverse, ma chi investe sono gli stessi. Cioè, esattamente. Questa non, ma non è una supposizione, se noi leggiamo proprio i libri della storia. Ma se andiamo storia, a vedere anche negli altri paesi, no? Nei paesi che fino a ieri erano famosi per la cocaina, prendi la Colombia, questa è proprio, sembra quasi un, non so come dire, un algoritmo che si applica, no? Per cui voglio dire, non è che dove girano i soldi, cioè lo sappiamo anche da italiani, mo non siamo famosi per Escobar, però insomma dove ci sono i soldi la mafia, cioè, la criminalità gira, perché non è che quelli gli piacciono andare a lavorare, se no non è una criminalità. Detto ciò, erano dei poracci meno, detto ciò è chiaro che appunto quello che io volevo far notare è che appunto questi mega progetti creano una ricchezza, appunto questi paesi senza queste paraeconomie che potrebbero essere il narcotraffico piuttosto che il traffico di armi avrebbero proprio un PIL diverso nell'economia reale, di questo ci dobbiamo rendere conto. E quindi appunto le grandi lavatrici di pulizia di denaro, quali possono essere delle organizzazioni in una frontiera come quella in cui già 30 anni fa chi andava in Chiapas sapeva che ti fermavano nel piccolo vanno perché cercavano gli ecuadoriani che stavano sotto, cioè cercavano i migranti, quindi quella è un'altra frontiera in cui la corsa verso la grande frontiera in cui insomma sono stati scritti miliardi di pagine, penso, sulla frontiera tra Stati Uniti e Messico, per un motivo o per un altro, forse solo per questo primo e terzo mondo che si scontrano in quella frontiera lì. È chiaro che questo spostamento che tu racconti è di un'importanza notevole e gli attori sono tutti insieme, non ci sono quelli legali e quelli illegali, perché i soldi che si muovono sono quelli. Quindi voglio dire, tutto questo sta succedendo a una frontiera, appunto come dicevi, molto più ristretta, in un territorio dove noi sappiamo che comunque insomma è stato fatto tanto lavoro, è lì che un po' appunto non so dove vogliamo arrivare, proprio a narrare quello che sta succedendo adesso in questo periodo in Chiapas. Sì, sì, diciamo possiamo, mettiamo la lente, come si dice, più sul territorio, sul locale. Allora, come, più o meno, per chi ci ascolta, stiamo dicendo che questa nuova frontiera, in termini proprio economici, industriali, che si sta creando appunto fra Oaxaca e Chiapas e Yucatán, quindi nel famoso sud-est messicano. Territorio noto, in realtà fino ad oggi era più noto per le rivolte indigene che per altre cose, e per qualche bella spiaggia sicuramente, ma la storia riconosce un posto nei suoi annali sicuramente per le numerose rivolte. Questo parla quindi di numerose villaggi, organizzazioni di base che continuano a organizzarsi, nel senso tutto questo non è stato spazzato via, però sicuramente ci troviamo in una fase estremamente difensiva, non solo in termini politici per la gran cooptazione che ha fatto il governo di sinistra di tanti quadri di queste organizzazioni che ho menzionato, che oggi uno è diventato funzionario, l'altro è diventato deputato, l'altro è direttore di un ONG, insomma c'è stata una sussunzione anche delle intelligenze del movimento nel governo di centrosinistra, senza che queste intelligenze abbiano prodotto un cambiamento reale, perché cioè può pure stare, nel senso quelle già sono opinioni personali o collettive, diciamo, nei vari gruppi c'è chi ha differenze tattiche e strategiche su questo, sulla scelta di stare in un governo di sinistra o meno. Ovviamente noi parliamo da una posizione molto critica, però dico, dimostriamo almeno nei fatti che queste intelligenze di movimento abbiano creato un cambio almeno minimamente favorevole alle classi subalterne, no, specialmente in questi territori. Cioè, se mentre io prima parlavo della ridistribuzione di borse di studio e pensioni soprattutto nell'ambito urbano ha creato, diciamo, un cuscinetto contro la povertà estrema, niente più, però è comunque qualcosa che magari dal basso può significare, nei campi, nelle montagne, invece ci si sta ritrovando là sì con l'invasione, quindi con la riconquista, come si definisce, neoliberista dei territori, che vengono appunto sotto veste di treno, di raffineria, di corridoio industriale. E quando dico invasione, devo dire che è aumentata smisuratamente, non so i termini in percentuale, la violenza, l'indice di violenza, di omicidi, di assassinati, ma soprattutto la percezione della vita. Molti di noi viviamo qua da tanti anni ed è cambiata la qualità della vita nei termini di sicurezza sociale. Le sparatorie sono all'ordine del giorno, i sequestri, i desaparecidos. Non voglio che questa sia una percezione soggettiva mia, ma adesso, in questo momento, la guerra al narco che è cominciata nel 2006, che non è la guerra al narco, è la guerra che il governo federale, insieme al cartello di Sinaloa, nell'allora 2006, dichiarò contro i Zetas, perché i Zetas stavano levando le piazze a uno al cartello di Sinaloa, che è l'alleato socio storico del governo messicano da sempre, cioè diciamo è la mafia istituzionale, e sono quelli che hanno sempre permesso, diciamo, il flusso di cocaina dalla Colombia agli Stati Uniti. Sono i grandi operatori logistici, esatto. Sono coloro appunto che, come racconta la logistica di quello anche che arrivava da Sud America, esatto. Certo, insomma, sono quelli che per esempio cercano i soci, e i soci l'hanno trovati pure allo Spinos, cioè nella casa del presidente, hanno trovato i soci per investire in cocaina in Colombia e rivenderla negli Stati Uniti, come se fosse un prodotto qualsiasi, e con il beneplacito appunto delle forze federali. Ora, tutto questo bello schemino, che in realtà c'era dagli anni 70, è un po' zompato agli inizi del 2000, e peggiorato diciamo nel 2005 2006 2006, diciamo, con la controffensiva fatta dai Zetas, che si sono alleati col cartello del Golfo. E gli Zetas pure chi sono? Si formano come battaglione di forze speciali allenate e formate dai Caibiles in Guatemala, e vengono usate speciales della selva, e dopodiché passano, si ammutinano e passano in blocco, comandanti, armi, elicotteri, carri armati, bazooka, passano il cartello del Golfo, si appropriano incluso del cartello del Golfo e cominciano la scalata, diciamo, per conquistare le piazze, con una capacità militare ovviamente altissima, e ovviamente pure con, all'inizio, con il permesso pagato o meno dei settori importanti della Segreteria della Difesa Nazionale. Quindi questi nella piena impunità cominciano a conquistare le piazze, e il governo messicano si allea col cartello di Sinaloa, cioè in realtà erano già alleati, probabilmente è il cartello di Sinaloa che ha chiesto al governo messicano fate qualcosa, e comincia la cosiddetta guerra al narco, che in realtà è la guerra contro i Zetas. Da allora, dal 2006, questo che significa? Che i militari cominciano ad avere funzioni di polizia che sono state definite, approvate costituzionalmente da Andrés Manuel Obrador. Cioè, nei fatti la destra ha messo i soldati per strada, ma costituzionalmente l'ha approvato Andrés Manuel Obrador. Quindi adesso ci ritroveremo con un governo che continua a dare ai militari funzioni di polizia, e domani magari con governi di estrema destra che utilizzeranno in altre maniere ancora più violente, ancora più dirette contro i compagni, queste stesse forze militari usate come polizia. Però al di là di questo, tra le tante riforme allucinanti, la quarta te, dobbiamo dire che, diciamo, questa guerra contro gli Zetas prima, e oggi è la guerra del cartello di Sinaloa contro il cartel Jalisco Nueva Generación. Quando io dico questo, dobbiamo pensare a gruppi armati, perché c'è un po' questa idea del narco col sombrero, il cinturone d'oro, questa idea romantica un po' del nemico delle guardie, sì, un po' far west, sì. Comunque nemico delle guardie. Invece io ripeto, i Zetas nascono dall'esercito. Il cartel Jalisco Nueva Generación, attualmente il cartello più feroce e violento in Messico, nasce invece da un gruppo che si chiamava Matasetas, esatto. Formato per ordine della DEA. La DEA degli Stati Uniti ordina al cartel de Sinaloa, raccomanda, gli dà un consiglio al cartel de Sinaloa e allo Stato messicano di organizzare un gruppo scelto di sicari, di francotiratores, cecchini, per eliminare tutti i vari capi dei Zetas, tant'è che i capi dei Zetas non stanno in carcere, sono stati eliminati tutti, i Zetas sono così scomparsi, e quella piazza è stata presa, invece di essere ripresa dal cartello di Sinaloa come era intenzione, questo gruppo detto Mata Zetas, che erano metà guardie e metà narcos, però ovviamente di corpi d'élite di entrambi i gruppi, sia del Sinaloa che dello Stato messicano, hanno grado il proprio gruppo narco che si chiama Cartel Jalisco Nueva Generación, quindi nasce in seno al cartello del Sinaloa e in seno agli apparati di Stato. Quindi tutti i cartelli più violenti del Messico sono partoriti dallo Stato stesso, dai corpi d'élite dello Stato stesso. Sì, poi perché giusto lo Stato per... è solo un attore in più, in questo processo di contendersi le piazze di centinaia di milioni di dollari in cocaina che vanno negli Stati Uniti. Finché ci sarà un mercato negli Stati Uniti, diciamo incommisurabile, ci sarà sempre, ci saranno sempre attori disposti a disputarsi la piazza, compreso lo Stato. Quindi, esatto. Tutto questo. No, è un po' così. Quello che volevo dire comunque, che noi diciamo usiamo come elemento di lettura di questa fase, di questa crisi, ma crisi umanitaria proprio, cioè questa, di questa guerra bassa intensità, tra virgolette, fra l'altro. Sì, perché scusa, io vorrei dire che quando anni. Noi parliamo che questi gruppi sono violentissimi, non stiamo parlando solo della violenza che possono avere tra loro nello scontro, nelle loro faide, stiamo parlando di scie di sangue che lasciano nella popolazione allucinanti, cioè... Non è che stiamo parlando solo di una guerra che c'è tra questi gruppi, che sembra che loro si vedono tipo Guerrieri della Notte. Stiamo parlando di tessuto sociale che va a merda completamente, perché lì dove c'è il terrore non ci si parla più. Sono comunità umane che si devastano in questi sistemi. Cioè, non è che solo chi si affiglia e chi ci vive in mezzo. Sono proprio la devastazione proprio delle comunità, no? Sì, noi diciamo che un nuovo dispositivo di governo e soprattutto un nuovo dispositivo di sfruttamento delle risorse in certe parti del mondo, esatto. Non solo in Messico, perché in Africa per esempio si dà tantissimo, il Congo per esempio è un altro paese dilaniato da gruppi narco-paramilitari che gestiscono i territori, cioè usare l'attore civile armato invece che usare l'esercito direttamente per invadere, che comunque si fa ancora, come purtroppo abbiamo visto, c'è un'altra forma di saccheggio che viene fatta attraverso invece attori civili, però armati. Questi attori civili di solito sono le bande paramilitari o le bande dei narcos. Ora, dicevo, stiamo parlando infatti di 440.000 omicidi dal 2006 a oggi, di cui 400, cioè siamo a un passo da 500.000 di persone assassinate in Messico. Cioè, non so se ci riusciamo a rendere conto, tutti noi abbiamo un amico, un parente, una persona che conosciamo che è morta in questa infinita sparatoria. A queste 440.000 persone, stiamo parlando quindi di 35.000 persone per anno assassinate, di cui 167.000 persone assassinate sotto Andrés Manuel Obrador. Cioè, il gran cambiamento poi nella vita quotidiana è solo stato un inasprimento dell'indice d'omicidi. A queste dobbiamo metterci dati ufficiali, io sto usando solo i dati ufficiali, i dati che io ti sto dando sono quelli della SEGOB, la Segreteria di Governazione, quindi sappiamo che poi la realtà supera di gran lunga i numeri, però bueno, cioè, ci atteniamo a questi dati. 95.900 desaparecidos, questo dato l'ho visto due settimane fa, quindi probabilmente stiamo già di più. Desaparecidos, cioè persone scomparse, sparite forzosamente, e stiamo parlando di numeri che sono tre volte tanto le dittature tragiche e infami del Cono Sur, del Cile, dell'Argentina. Però la despoliticizzazione del conflitto, cioè dire guerra al narco, non è la stessa cosa che dire guerra alla guerriglia. No. Despoliticizza completamente il conflitto, esatto. E per cui possono sparire 100.000 persone e manco un film ci va, questo manco avviene nelle serie, le sparatorie almeno le mettono nelle serie, questo non se ne parla, non esiste, c'è un'invisibilizzazione della crisi della sparizione di persone in Messico. E invece è un dato sconcertante, perché è peggio della morte la sparizione. Ovviamente c'è stato un caso eclatante, quello di 43 da Ayotzinapa, che comunque continua a stare nell'impunità assoluta, perché 25 dei 43 ragazzi, l'ultima traccia del telefonino era in una caserma, esatto, e il governo, neanche il governo di sinistra, autorizza l'apertura delle caserme e l'inchiesta sui militari, non lo autorizzano, non lo permettono, perché ovviamente c'è un patto di governabilità fra la cosiddetta sinistra istituzionale e i militari assassini. E quindi si perpetua questo livello di impunità. Quindi, ritornando a noi, al Chiapas, noi stiamo vivendo realmente nei nostri territori un'escalation di violenza inimmaginabile 10 anni fa. E già immaginabile 5 anni fa, e lo sai benissimo che noi facciamo questa denuncia da tanto tempo, e ormai già stiamo nel pieno della tormenta. La frontiera sud è totalmente del Chiapas, è totalmente devastata da una guerra campale, e camionette blindate che si smitragliano sull'autostrada, che si smitragliano fra loro, ma sull'autostrada sparando agli autobus dei turisti, alla gente che passa, ai lavoratori, alle signore in casa, perché poi le case sono di legno e di lamina, quindi i proiettili perforano, loro hanno le camionette blindate, noi no. Sì, questo è un po' un altro algoritmo che abbiamo visto ultimamente in Ecuador, ma che abbiamo visto tante altre volte, in cui appunto si crea un sistema in cui, per esempio, nelle carceri, oppure comunque si lascia un po', no, accadere per tanti anni un sistema per cui a un certo punto scappa il narco di turno, comunque si fa scappare il narco di turno, per creare un clima per cui di botto il paese si sveglia, il presidente di turno si sveglia, c'è questo grande pericolo e la prima cosa che fa è chiaramente dare i permessi speciali all'esercito, mettere il coprifuoco, e in questo modo l'abbiamo visto con Duque, con tutte le differenze del caso, però sembra quasi che ci sia questo schema per cui appunto la guerra al narcotraffico, la guerra alle pandillas come può essere con Duque, la guerra adesso come è successo in Ecuador, no, contro il narcotraffico, come se di botto si fosse svegliato una mattina, serve poi ad annientare completamente tutto quello che è lo stato di diritto, lo dico in questo modo, ma comunque no, l'abbiamo visto, certo. Adesso stanno succedendo massacri che sono poi la prosecuzione di questi sistemi che annientano tutta una serie di cose, appunto. Beh, l'esempio era proprio quello che tu dicevi di Tila, che adesso sono 4.000 desplazados, sì. 4.000 persone che sono andate via dal villaggio di Tila, ma il villaggio di Tila dal 2015 si era dichiarato autonomo, avevano cacciato le autorità municipali e la polizia municipale, dichiarandosi autonomo nel contesto del Congresso Nazionale Indigena, dell'autonomia zapatista, diciamo, no? Parallelo, non sono delle ZLN, ma sono un processo parallelo e vicino. E da allora è sempre stato, hanno denunciato sistematicamente la presenza di un gruppo chiamato narco paramilitare, chiamato i Karma, che hanno costantemente assassinato i dirigenti di turno, i quadri di turno di questo spazio, di questo villaggio autonomo, fino a che nonostante le denunce, nonostante i tentativi appunto di mediazione, così l'intervento dello Stato non è stato mai militare rispetto a loro, ma è quello di mandare appunto di formare un gruppo. In realtà sono gli eredi del gruppo paramilitar Pasi Justicia, che era nato contro gli zapatisti a fine anni 90, e che si sono trasformati in narcos, che è quello che sta succedendo. Cioè, tutta l'impunità data ai gruppi paramilitari sorti e formati contro il ZLN, soprattutto nel 95-96-97, nel 2000, così, nel periodo in cui era più intensa la mobilitazione appunto di attori armati civili da parte del Pentagono, perché c'è un manualetto che si chiama Plan Chiapas 1994, dove il Pentagono suggeriva alla Serena formate i ganaderos, formate contadini patriottici, dicevano, dategli le armi e mandateli contro i zapatisti, fategli fare la guerra fra indigeni e poi intervenite. Ma c'è proprio una pagina scritta così, come la sto a raccontare, semplice, pure scritta semplice, perché i militari, insomma, quello è il loro livello. E quindi in questo manualetto viene, e tal quale è stato applicato in tutto il Chiapas. Molti di questi gruppi che poi hanno frenato la loro attività intorno al 2000, diciamo, quando è crollato il PRI ed è arrivato il PAN, è stato un cambiamento di strategia. Esatto, lì c'è stata una grande svolta anche rispetto, esatto. Sì. Però questi qua non sono andati mai in galera, cioè si è mantenuta l'impunità di questi gruppi e hanno mantenuto le armi. Quindi fondamentalmente nei fatti sono rimasti, diciamo, orfani o comunque disoccupati rispetto allo Stato, ma hanno accresciuto la loro capacità di potere economico e potere politico mettendosi nel crimine organizzato, cioè trasformandosi, diciamo, in cellule del crimine organizzato. Quindi traffico di migranti, prostituzione e sempre più traffico di cocaina. Quindi, diciamo, protagonisti in questo mercato nero, ma comunque redditizio, e adesso hanno un potere politico che è tutto un dibattito qua, se hanno più potere politico loro o è lo Stato che ordina loro, ormai sono loro che decidono il bello e il cattivo tempo, anche contro gli interessi dello Stato. Molte volte. Cioè, comunque è la storia conosciuta dei gruppi terroristi armati dalla esatto. destra e armati dagli Stati Uniti, che poi prendono il potere e diventano attori a sé stanti, diciamo, no? Sì, sì. A seconda, esattamente. Ovviamente che siano dipendenti o meno dallo Stato, cioè se, per esempio, se l'ordine di attaccare Tila sia venuto direttamente dal governo federale o meno, in termini di una lettura più ampia, non cambia niente. È un intervento da parte delle istituzioni di un gruppo armato totalmente slegato, diciamo, dall'etica e dalle leggi, che attacca violentemente per controllare le rotte del mercato e per imporre un politico di un partito o di un altro a una presidenza e avere quindi così un appoggio istituzionale per poter continuare a vendere, a trafficare e tutto quanto. Ovviamente in un municipio autonomo questo è impossibile, per cui c'è un punto di interesse politico anche il narco a distruggere le realtà autonome dove può. E nei fatti, ora questi che stiamo parlando dal 4 al 7 giugno, che pare stati 9 morti, hanno bruciato mezzo villaggio, in realtà c'è stata una risposta, cioè nel senso questi hanno attaccato e la gente del villaggio si è difesa e quindi questo si è trasformato in una battaglia di 3 giorni che ovviamente fa anche vittime collaterali e che so la popolazione, che è quello che più ci preoccupa. Quindi poi la gente scappa e ovviamente la risposta dello Stato adesso è stato mandare truppe militari, ovviamente non durante lo scontro ma 3 giorni dopo. Quindi adesso il villaggio, che era un villaggio che almeno stava facendo il tentativo di mantenere un processo autonomo da quasi 10 anni, adesso è totalmente occupato dalla Guardia Nazionale, dall'esercito, che ovviamente se riescono a distruggere diciamo gli spazi autonomi metteranno un politico che a sua volta darà spazio a questo gruppo narco, come succede in tanti altri villaggi, in altri posti del Chiapas. Quello che stiamo leggendo adesso di Tila io lo racconto perché è paradigmatico, ma in realtà succede in tanti villaggi in forme più o meno violente, più o meno intense, a un punto che noi la chiamiamo guerra di frammentazione territoriale, cioè proprio una nuova strategia, una nuova forma di fare la guerra. Non mandiamo più l'esercito, ci sono centinaia di gruppi di attori armati, un po' come adesso in Colombia, centinaia di attori armati, figli di un conflitto sociale e politico mai risolto, e questi attori armati adesso stanno in rotta di collisione tutti contro tutti, o almeno questa è l'immagine che si ha, la percezione nella vita quotidiana, perché sono tutti gruppi che si sparano, tutti i trasportisti hanno il gruppo armato, caffettaleros hanno un altro gruppo armato, quelli che vendono i ganaderos hanno un altro gruppo armato, i narcos, i grandi cartelli come il cartello di Sinaloa e il cartello Jalisco Nueva Generación finanziano o danno armi a uno o all'altro gruppo e cominciano a scontrarsi da un giorno all'altro, così dal nulla si cominciano a smitragliare i tassisti. Ma è così, questo è il livello. Anche qui a San Cristobal della Scala, da dove si sto parlando, la situazione è questa: ci stanno i locatarios del mercato che si sparano contro i tassisti, che si sparano contro i trasportisti, e poi dopo, facendo le mappature, più o meno uno capisce che ma questi adesso stanno, infatti, se sono affiliati a quel gruppo che infatti a sua volta è affiliato al cartello di Sinaloa, quell'altro stanno col cartello Jalisco, ovviamente con una mappatura complicatissima, fluida, attori che cambiano sempre, ma il risultato è che tutti si sparano con tutti. A chi giova che tutti si sparano con tutti? Noi sicuramente no. Siamo ovviamente assolutamente nella difensiva, ovviamente dico un noi generale, no? Riferito ai movimenti autonomi, che in Chiapas comunque non erano e non sono poca cosa. Siamo ovviamente in una fase difensiva, uno perché te devi difendere, cioè nel senso te devi proprio salvare, uno devi schivare le pallottole pure fisicamente. Cioè comunque non è la stessa cosa svegliarsi la mattina e non sai se fuori scuola di tuo figlio ci sarà la sparatoria, cosa che è già successo. Ovviamente la cosa più importante è metterti in salvo. La gente questo pensa: speriamo che oggi vada al mercato, speriamo che non sparano. È così, tutti i giorni. Dopodiché cerchiamo di organizzarci in questo contesto. Che fai? Ovviamente ormai diventare una lotta per la pace, una pace intesa con giustizia e dignità dal basso a sinistra. Però diciamo, ma altro che la costruzione del socialismo. Qua adesso quello che dobbiamo fare è creare degli spazi, quello che stiamo cercando di fare, per esempio nel quartiere dove stiamo, ma appunto in queste comunità che ho menzionato prima, come esempio, creare gli spazi di pace. Cioè, innanzitutto creiamo degli spazi liberi da questa violenza fratricida, assurda e fra l'altro molto violenta, perché comunque dettata da un uso di droghe sproporzionato che prima sì, non esisteva. Che poi raggiunge diciamo, livelli proprio di macabro allucinanti che solo il narcotraffico può. Esattamente, sì. Esattamente, io non entro in questi dettagli perché no, sono spaventosi e poi sono no, appunto morbosi, quindi, però è brutale perché poi appunto come 3 giorni fa ti svegli e c'è un corpo appeso al ponte e comunque i bambini lo vedono, noi lo vediamo e si spaventa, non è che, cioè sì, esiste un linguaggio del terrore in tutto questo, basato ovviamente su un consumo spropositato di cocaina che rende tutto possibile, anestetizza la violenza e quindi comunque, però prima queste cose le facevano i militari, le facevano i corpi scelti contro i guerriglieri, non è nuova questa violenza, ma si è diffusa nella popolazione fra tutti gli attori. Adesso il pischello dei 16 anni non solo le spara, ma se te può squartare, squarta pure, perché ha imparato in questa violenza istituzionale, in questa violenza indotta dal saccheggio che il capitale fa nei nostri territori, a che è giusto lasciare il braccio del nemico appoggiarlo da una parte come messaggio, o violentare la donna del nemico per dimostrare l'impotenza del nemico. Un linguaggio, ripeto, che apparteneva alla guerra, certo, apparteneva, però che adesso è pratica della violenza anche nel contesto, diciamo, civile, tra virgolette, perché le civile non c'ha più niente. Però è quello che te lo dico, in tutto questo noi stiamo sulla difensiva, al massimo cercando di costruire spazi di pace, ovviamente sempre assembleari, sempre orizzontali, sempre dal basso, e in alcuni casi, tocca dirlo, le stesse comunità, le compagne e compagni si devono armare per difendersi da un nemico comunque spropositato in termini appunto di armi, di capacità e di aggressività. Ci sono degli esempi virtuosi di comunità, di compagni che si sono armate e stanno respingendo la violenza del narco, però ovviamente questo significa entrare in una logica ancora più militarizzata di guerra anche per i compagni, perché ovviamente nessuno si vuole svegliare la mattina e prende il fucile, hanno fatto uno di guardia sperando che magari le sparano pure, è una cosa aspettando, diciamo, cioè nel senso da compagno che vive qua da tanti anni è un cambiamento importante, perché cioè nel senso le ZLN aveva fatto tutto lo sforzo contrario, separiamo la struttura civile dalla militare, perché la nostra affermazione nella vita è costruire scuole autonome, ospedali, cooperative di donne, creare spazi per fare sport, vivere la vita con dignità, felicemente, la costruzione della felicità come felicità collettiva attraverso un socialismo libertario. Questo è quello che sta dicendo ZLN e questo è quello che a noi ci ha ispirato in tante parti del mondo. E adesso tu vedi una retrocessione in termini di agibilità e quindi di costruzione di questa felicità collettiva, col rischio pure che devi mettere mano alle armi per difendere quel poco che ti resta, che è la vita. Sì, è bruttissimo, questa cosa è pesantissima che ci racconti. Io ci hai lasciato una quantità di spunti di riflessione che credo che proprio un po' in silenzio dobbiamo prendere, no? E cominciare a riflettere un po' sul narcotraffico in maniera più lucida. Forse il Messico ci aiuta di più perché, per assurdo, rispetto per esempio alla Colombia ci è più vicino per tutta una serie di cose, no? E voi siete una voce importantissima, dico te, parlo del nodo, di tutti i compagni e le compagne che state giù, perché appunto una chiacchiera come quella di oggi non so chi altro avrebbe potuto farmela, un po' perché si sarebbe accollata, un po' anche perché è un'analisi che ci hai fatto chiarissima, sia di quello che è il tessuto sociale che lo sta ricevendo, sia appunto invece la devastazione di tutti quegli spazi di autonomia importantissimi che ci mantenevano un po' la speranza, no? Il Messico per noi da qua era sempre un po' quella avanguardia, un po' in un lavoro collettivo comunitario, quindi è pesantissimo e a me mi viene un po' di paura, nel senso che sicuramente quello che ci hai detto è un cambiamento devastante. Io che seguo un po' il Messico, 10 anni fa è vero che era inimmaginabile, è vero che tutto questo però è stato possibile sempre alla politica istituzionale, una volta al presidente che deve vincere e fa e cambia il sistema di accordi con i narcos di turno, e poi no, comunque è sempre da lì che si passa, per cui penso che sia importante sia veramente non cadere in quelli che possono essere dei cambiamenti assolutamente, se vale la pena dire, di superficie di quello che cambia, o così di grandi abbocchi che ci vogliono fare con la presidenta messicana, e invece concentrarsi su cose a cui siamo molto più vicini, perché appunto poi non è che il narcotraffico si spende solo negli Stati Uniti, uno un po' riflette, no? E credo certo, sia importante. Lo sappiamo bene. No, lo sappiamo bene. Quindi... Io volevo, guarda, Se ci stanno altri 2 minuti, solo volevo chiudere con una frase che ripetiamo spesso, quindi c'è una guerra in corso, assurda, perché in Messico si può ancora venire a fare turismo, si può ancora venire, anche se cominciano a restringersi gli spazi raggiungibili anche per i turisti, però essere in Messico da cartolina, anzi pure con la presidenza di sinistra, però questo è quello che sta succedendo nelle strade, realmente, nella vita di tutti i giorni. Però vorrei che questa lettura fosse politicizzata, perché, ripeto, l'uso della guerra al narco spoliticizza, già solo nel dirlo spoliticizza il conflitto. Dobbiamo invece intendere che la narcodittatura, come noi la chiamiamo, che questa cosa non è una cosa aliena, non è che viene dal, è parte delle strutture di potere e delle strutture economiche già esistenti. Per cui qua il tema principale è che il capitalismo, ossia l'accumulazione di ricchezza, la messa a valore di territori, cose, persone che prima non avevano questo valore, è una pratica totalmente capitalista, esercitata però da quelle che noi chiamiamo le imprese radicali, che sono in parte narco, in parte sono financiadoras, in parte sono banche, grandi capitali, che agiscono anche attraverso i gruppi paramilitari, che sono la faccia brutta visibile, ma che in realtà tutto questo serve a generare più soldi. Cioè, stiamo parlando di capitalismo, stiamo parlando ancora di un conflitto di classe. Non dobbiamo rinnovare la lettura e trovare una nuova grammatica, perché gli attori sono differenti da quelli che eravamo soliti analizzare, ma il tema centrale, cioè in termini di struttura economica, è la stessa. Cioè, la riconquista neoliberista dei territori e del continente, soprattutto dei territori indigeni, punta a mettere a valore questi territori, sia con la mineria, sia con il turismo, sia con gli aeroporti, le dighe, insomma, le infrastrutture, la logistica, cioè, in mille maniere. L'obiettivo è mettere a valore il più possibile, fare soldi. Chi fa i soldi? I ricchi. Come? Ma non, adesso qua non stanno più tanto, mandano anche l'esercito, ma soprattutto mandano i narcos. Quindi quei narcos, quei gruppi paramilitari sono l'attore armato che permette il saccheggio e l'accumulazione di ricchezza per i ricchi, per i capitalisti. E noi chi siamo? È quelli che hanno tutto da perdere. Esatto. Quindi io vorrei sottolineare che esiste una lotta di classe nella costruzione di pace dal basso, di spazi di autonomia. È la lotta di classe per porre freno al saccheggio. Con questa lettura possiamo collocare il narco in uno scenario dove sì, loro lavorano per i ricchi, loro non sono l'antistato, loro non sono i nemici delle guardie, loro sono il braccio armato del capitale. Esatto. E noi dobbiamo porre resistenza in tutte le maniere possibili, come si fa con i fascisti. Esattamente. Nello scontro fisico il meno possibile, perché ce l'abbiamo da perdere, però quando necessario anche nello scontro fisico, però soprattutto nella costruzione degli anticorpi culturali e dei spazi di accessibilità, quindi spazi di donne, spazi di pace, spazi per bambini, controcultura, cultura della pace, della fratellanza, cooperative, e creare questo tessuto, ovviamente con ronde di quartiere, che è quello, certo, che stiamo a fare, non è una supposizione, sto cercando di sintetizzare quello che certo, si stiamo certo. a fare. Come risposta però di classe, cioè diciamo dei subalterni del popolo, come si sa, del pueblo, contro questa infinita necessità di accumulare ricchezza che ha il capitale sui nostri territori e sulle nostre vite. Volevo dire questa perché lo sottolineo e lo lascio così, chiudo con questo, perché dobbiamo ripoliticizzare questa guerra al narco. Non è una guerra fra narco, non è una guerra di bande, non è una guerra di cocaina, è la guerra del capitalismo sulle nostre vite e sui nostri territori. Loro sono solo il braccio armato, ricco e infame. Guarda, io non so veramente come ringraziarti, perché sei stato di una chiarezza disarmante e ci hai fatto un'analisi che veramente credo che sia difficile riuscire a farsi da sole o comunque trovare anche altrove che qui, quindi veramente grazie. Poi ti mando un abbraccio infinito, mi viene da dirti state attento, perché appunto, no? Vivere lì mi immagino che sia cambiato molto, e mi ricordo San Cristobal in un altro clima, quindi mi fa molto male sentirlo e vi penso un sacco, e sapete che qui ci avete sempre una sponda, una radio. Grazie, io invece al contrario volevo ringraziare Radio Onda Rossa e specialmente a te, ma anche a tutte le compagne e compagni che ci ascoltano, si sostengono e che cercano appunto di diffondere questo messaggio di speranza, di lotta, perché ancora c'è, ancora ce la potremo fare, è una luce nel buio, però qua stiamo e ringraziamo veramente tantissimo Radio Onda Rossa e tutte le persone che ci ascoltano. Un abbraccio grandissimo, enorme dal Chiapas. La poli no me cuida, me viola y me castiga. La poli es mi enemiga, me cuida en mis amigas. La poli no me cuida, me viola y me castiga. La poli es mi enemiga, me cuida en mis amigas. Hacemos lo que queremos, al poli prenderemos. Juntas gritaremos, vivas nos queremos. Rompamos las cadenas, México que envenena. Nacer mujer en un país que nos condena. Quemamos la bandera y que el Estado muera. Lobas guardianas, ritual de luna llena. Ocupa Cuba, resistencia hermana. Si estamos locas las pinches mexicanas. Acción directa, bloque negro, incendiarias. Haciendo historia.